Ciao, buonasera. Allora, abbiamo chiamato te perché appunto sei l'unico che conosco che parla un po' italiano per raccontarci un po' quello che è successo questa notte a Madrid. Insomma, i giornali italiani parlano di una nottata di scontri, di tanti feriti, di un poliziotto grave. Insomma, cosa sta succedendo? Cosa è successo e cosa sta succedendo poi in tutta la Spagna? Sì, ieri è finita un mese di mobilitazione infatti sei mobilitazioni che sono partite da sei città della Spagna, soprattutto dall'Andalusia del Sud, e che hanno andati camminando da lì fino a Madrid. E durante tutto il percorso, sempre ogni giorno si è sumato più gente ed è finita in un enorme corteo ieri. Alcuni parlano persino da 2,5 milioni, comunque i numeri sono enormi. La stampa italiana parla di 50,000 persone. 50,000 persone è quella cifra che ha detto la polizia, e che in realtà è più il numero di poliziotti che c'è in strada che i manifestanti. È impossibile, visto quanto grande è Madrid e quanto ha occupato la mobilitazione, è impossibile che ci fossero soltanto 50,000 persone. Comunque, al di là della guerra di cifre, il dato più importante è che è stata una mobilitazione enorme, che ha coinvolto praticamente tutto tipo di gente tranne i partiti politici dal regime e i sindacati. Cioè, è stata assolutamente autoconvocata questa mobilitazione, quindi è stata una grande giornata di mobilitazione che ha alcuni dicono che ha tornato a vivere lo spirito del 15M. Comunque è una mobilitazione autonoma assolutamente impressionante. Poi ci sono stati anche scontri molto molto duri durante la notte, quando la polizia ha attaccato praticamente la piazza Colón, che dove si stava sviluppando l'atto finale i parlamenti da questa mobilitazione. E quindi poi i compagni hanno reazionato in modo molto duro. Questa volta non si sono lasciati colpi. Sì, è vero che sono stati ieri scene di vera e propria guerriglia. È vero che sono ieri per una volta è vero che ci sono dei poliziotti feriti. Comunque tutti i poliziotti, persino quelli che ieri il governo ha detto che sono gravi, sono ormai a casa sua, e quindi non è tanto grave. E invece ci sono dei compagni che sono ancora in ospedale e che non sappiamo cosa succede con loro. Quanti compagni ci sono in ospedale e quante fermi, persone fermate, arrestate ci sono? Ci sono due decine, più o meno 20 compagni fermati, arrestati, che sono ancora dentro. E dei feriti c'è, come del numero di assistente, una guerra di cifre che non è chiaro. Un minimo di 30 persone feriti, delle quali 10 sono ancora in ospedale. Questo è il minimo, non siamo ancora in grado di dire numeri definitivi. Senti, in questi, insomma, dicevi che questa manifestazione viene al culmine di un mese di proteste in tutta la Spagna. Qual è il clima oggi, dopo quello che è successo a Madrid? Se ci sono, insomma, degli appuntamenti, anche, insomma, qual è stata la risposta un po' della popolazione? È stata una risposta di una popolazione che ormai è molto stanca, a cui non gli basta soltanto parlare di cambio di governo, cambio di rappresentanti. Ieri c'erano due parole d'ordine che erano fondamentali: una è non paghiamo il debito dalla Troika, e l'altra iniziamo un processo costituente che ci permetti cambiare questo paese, da rovinare questo paese dal capo. Quindi queste due cose, che 4 anni fa il pago del debito e il processo costituente, l'inizio di un processo costituente che suonava magari come qualcosa molto strana, ieri è stata portata in piazza per milioni di persone, e oggi apre i giornali. Quindi Secondo me è stato un momento di mobilitazione molto importante, non soltanto per il numero, ma anche qualitativamente significa un passo molto importante per due temi. Va bene, io non so se hai altro da aggiungere, sicuramente insomma continueremo casomai nei prossimi giorni ad approfondire un po' più in profondità quello che sta succedendo in Spagna. No, io vi saluto, vi ringrazio per l'interesse, rimaniamo in contatto.